In diretta dallo studio del commercialista di Batman, sito in Cantù, va ora in onda Opencast Alpha. Opencast, codice Alpha, così, un nome nuovo per la nuova serie di Opencast. Un nome nuovo, personaggi vecchi, non è vero, personaggi nuovi e vecchi. Ci sono anch'io. C'è anche Davide, ospite super speciale, ma anche non ospite, probabilmente è fisso. Cioè è un ospite, è un po' come l'ospite quello che rompe le palle, sai, quello che arriva e non si leva più dalle palle. Se potete venite a salvarmi. Sì, è ospite prima puntata perché è prima puntata, quindi ospite, ma praticamente sarà ospite fisso, quindi non sarà ospite. E quindi che cos'è? Qualcosa, quello che ti pare, Davide. Che brutto futuro che ho davanti. Dai, Davide. E quindi Davide, novello presidente del gruppo Linux di Como, è ospite. Eccomi. Ospite fisso. Bravo, presidente. Bravo, grazie. Ospite fisso al Opencast Alpha, la nuova serie dei Opencast del GL Como, un podcast che parla di tecnologia, di open source, ma non solo. Tecnologia in generale, questa nuova serie è più ampia. Questa nuova serie l'abbiamo voluta ampliare per ampliare anche il nostro pubblico. Mentre prima eravate 600.000, adesso puntiamo al milione almeno. Bravo, a mi piace come parli. Mi piace, a settimana, mi piace. Grazie. No, grazie. Perché insomma la famosa signora Maria che prende il tram. Esatto. Va benissimo, però noi vogliamo qualcosa di più come pubblico, capisci? Sì. Perché ma anche la sciura Maria vuole di più, perché gli abbiamo impartito delle lezioni, gli abbiamo impartito delle informazioni sul mondo Linux, su cose importanti, ma lei vuole sapere di più. Ha visto per esempio quel ragazzo lì sul treno l'altro giorno mentre andava da Milano a incontrare sua sorella che non la vedeva da almeno due giorni. Ma chi era? Il barbone? No, il ragazzo, quello lì che c'aveva in mano quel robo lì che lo toccava tutto e non si capiva cos'era, una roba piatta. Che... Il treno? No, non il... Sì, in treno. C'aveva, cioè era lì in mezzo a tutti con la roba in mano che lo toccava. Però era piatto, era un po' un rettangolino, no? Una tavoletta. Come si chiama? Era come un sumero. No, non era un sumero, una roba un po', aspetta, di quelle che tocchi una... Mi sono fatto male oggi che ho scolato la pasta proprio. Vedi, fai attenzione, la pasta dolore. È uno dei primi. Come si chiama? Qualcosa lì che adesso va di moda, quella roba lì, lo tocchi tutto col touchscreen. Mia sorella. Ah sì? Ok. È interessante. Io direi che questa qui poi più tardi facciamo tutto un discorso. Quindi parleremo di tecnologia in modo più ampio, cara Shura Maria. E anche lei scoprirà che cos'è quella roba lì quadrata che si tocca tutta. E non è una roba pornografica, come credeva. Ah, ok. Quindi partiamo subito con le news, caro mio Fabietto. Certamente. Io partirei, inizierei con un argomento che per far vedere che questa nuova serie di Opencast è diversa, partirei subito con un argomento diverso fuori dall'ambito open source, per cui parlerei di PlayStation 3. Ah, PlayStation 3, bene, allora qui colgo la palla al balzo. Ragazzi, vi chiedo innanzitutto, cosa sapete voi della PlayStation 3? Che è nera. Madonna, ma devi essere razzista anche quello con console. Io, che ce ne sono altre due prima. Sì, ok, ci stiamo avvicinando. Qualcos'altro? Ci si gioca? Sì, più o meno anche. Io, costa un casino. Questo assolutamente sì. Ci hanno fatto qualcosa per il DNA, una roba del genere, no? Sì, c'è un sistema di calcolo distribuito, bravissimo. Io, la puoi usare per scaldare la stanza. Sì, in effetti, soprattutto le prime versioni, ancora? Ma era quella cosa che il tipo toccava sul treno? No, quella non c'entra, quella ne parliamo dopo, ne parlerai tu, abbiamo deciso così. Beh, signori, la notizia dell'ultimo minuto, verso fine settembre, la PlayStation 3 è stata jailbreakata. Che cosa significa? Sapete cos'è il jailbreak? È un tipo di ballo. Sì, più o meno, vicino al breakdance, in effetti, jailbreak dance. Quasi folk, ci sta? Basta, non ne sappiamo più niente. Allora quindi affrontiamo questo argomento jailbreak. Allora, che cosa è successo? All'inizio di quest'anno, gennaio, qualcuno lo conoscerà, il hacker Geot ha detto dopo tre anni di... Sì, quello Frodo lì. Sì, beh, quello che assomiglia un po' a Mika, il cantante, no? No, è Frodo. Non è Mika quello. No, Mika è Frodo. Mika è Frodo. No, ma io mica ci credo che quello fa l'hacker, ragazzi, c'ha una faccia, andatevelo a cercare su internet, veramente. Frodo. Roba. No. Quello è un hacker di Frodo, ecco, esatto, è un hacker di Frodo, questa ci potrebbe stare dentro. E allora che cosa ha fatto questo ragazzo? Beh, ha trovato un bug all'interno del sistema di protezione di PlayStation, ha detto, ma prossimamente potrebbe succedere qualcosa, però lui non si è impegnato eccessivamente perché non aveva intenzione di andare a fondo, ha scoperto questa cosa e basta. Sony è corsa ai ripari, all'incirca verso aprile ha deciso di togliere il supporto ai sistemi operativi che non sono il suo originale, quindi niente Linux su PlayStation 3, quindi no! Tante arrabbiature, una class action, insomma ancora non si sa come andrà a finire. Fatto sta che a fine agosto è stato trovato un metodo che sfrutta il bug di un firmware per poter far girare del software non certificato sulla PlayStation, quindi degli homebrew, dei cosiddetti homebrew. Qui ragazzi si è aperto veramente un mondo perché possiamo far girare varie applicazioni in futuro. La cosa più utilizzata per adesso è il backup manager, per vari motivi, perché tutti vogliono backupparsi i giochi, non si è mai usare quelli originali dal disco. Gedit non è stato ancora scritto. Guardi, non sogno, non capisco, non sono di qui. Non capisco. Ma ci gira Internet Explorer? Perché io. No, guarda. Anzi, no, aspetta, scusa, la domanda giusta è: Ma ci gira internet? Ci girava. Adesso forse è meglio non collegarsi, perché altrimenti ti fa fare un aggiornamento firmware nuovo. Beh, insomma, se volete approfondire questa news, andatevi a cercare su internet PS Jailbreak. E vi consiglio soprattutto di guardare PS Groove, che è la versione del software open source del Jailbreak, che è stato reverse engineerizzato dalle chiavette che hanno commercializzato inizialmente. Adesso è possibile jailbreakare la vostra PlayStation attraverso un normale lettore MP3 o qualcosa che abbia un microcontroller a bordo, da una chiavetta USB a un iPod, a un iPad. Oddio, ho detto quella parola, iPad. Che cosa ho detto? iPad. Uno destro, uno sinistro. Sì, c'ho iPad pure. C'ho tutto. A proposito dei iPad, ragazzi, vogliamo sarà la seconda notizia? Beh, la seconda notizia. E ricollegarci alla Shura Maria. Mi fa piacere, scusate se mi intrometto così a interrompere il vostro pensiero così scarso. Mi fa piacere notare come Opencast, nonostante sia la nuova serie, le notizie siano sempre comunque leggermente stantie. Sì, ma io, maestra, guardi, veramente ho studiato. Con la mia mamma ieri mi ha spiegato queste cose sulla PlayStation, perché io non lo sapevo, io pensavo fosse una bistecchiera, perché di solito cercavo di trovare un'apertura per metterci dentro. Dice, una scalda. Volta la mia mamma l'ha cambiata per il tostapane e l'ha presa e l'ho trovata in cucina. Ho detto, mamma, cosa fa con la PlayStation in cucina? E mi ha detto, con che cosa? Col tostapane, mamma. Vabbè, insomma. Proseguendo, ma qua c'è gente che si muove nel frattempo. E qua nel frattempo ci la sono tecnologia dei avanza, avanza da sola. Allora, si muove. Devi stargli dietro. Allora, caro Davide, di cosa ci vuoi parlare? Così ti passo la palla. Il presidente è presidente, felice di questa cosa. Vuole parlarci? Che cosa vuole parlarci? Ci stiamo passando un foglio al presidente. Ma dai, così. Ma così vai a ma tanto braccio. Uno preparato, lui gli stiamo dando una mano, un bigino. Allora, visto che in giro ci sono molti che parlano di questo iPad. iPad? iPad. iPad. Che mi pare fosse quel coso, quella tavoletta che sì, esatto. toccava il tipo sul sì, treno. Sul treno. Porco. Quindi ci siamo davanti alla sciura. Poi lascia tutte le ditate, guarda che questa gente è veramente zozza, io non li sopporto. Comunque sono usciti da pochi giorni i dati sulle vendite dei tablet, quindi questi dispositivi che sono più o meno privi di tastiera, e diciamo che il mercato si sta aprendo veramente per questi nuovi dispositivi. Siamo già arrivati a quota 20 milioni per il 2010 e si prevedono 58 milioni per il 2011. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, grazie, grazie. Bravo. Attenzione, attenzione. Tablet, l'anello mancante tra l'uomo e la scimmia? Lo scopriremo o forse no? Chi lo sa? Ma noi ci proviamo. La cosa bella di questi nuovi sistemi sono... è che virgola. Li puoi utilizzare, virgola. Dillo con parole tue. Ma sì, sì, vai tranquillo. Volendo potresti utilizzarli con sistemi operativi come Android? Ah, però. Ah, parliamo di Android quindi. Per insomma. Cui... Che diciamo cos'è Android? Che Android è un sistema operativo... che è stato acquistato, diciamo così, da una casa, mi pare si chiami, virgola, Google. Ah, le case acquistano delle cose? Non di lo solito... so, casa mia fortunatamente non acquista io niente. Di solito perché, acquisto insomma, le case. Stai attento, non si sa mai. Stai molto comunque attento. Google ha preparato la nuova versione di Android, è pronta per il rilascio ufficiale della versione 3 e sta già lavorando come una pazza la versione 4. Lasciami stare. Che sto lavorando. E pensate che utilizzando questi nuovi sistemi operativi, diciamo quasi liberi, le case produttrici potrebbero risparmiare fino a $40 per ogni apparecchio. E quindi qua mi viene da dire Opencast, un programma per eterosessuali, ma anche no. E andiamo avanti. Per eterosessuali. Eterosessuali, trasmettete il vostro sesso via etere, eterosessuali. Scusa, ma, Davide. No, io volevo solo dire che a proposito dei tablet, io sto attendendo che arrivi sul mercato l'Adam. Chi? L'Adam. Ah, e chi è? L'Adam. Approfondiscilo. Allora, L'Adam. Rubrichetta, approfondiscilo. Ah no, approfondiscilo, invece l'ho capito. Niente, si tratta di un tablettino molto carino, sviluppato da una società, da una novella società indiana, Notion Inc. Chi? Notion Inc. Inc. Notion Inc. Indiani. Indiani, sì. Inchiani. Che hanno sviluppato questo tablettino che gira appunto Android, su cui hanno inserito, diciamo, un livello personalizzato per l'interfaccia, perché usano Android, l'ultima versione, cos'è, il 2.2? Sì, sembra. Versione sì, esatto, che Google stesso ha detto che non va bene per i tablet perché lo schermo è troppo grande. Allora loro cosa hanno fatto? L'hanno preso e hanno inserito delle modifiche in modo che le applicazioni possano avvantaggiarsi comunque di questo schermo più grande. Tagliare il monitor? No, dopo veniva uno smartphone, scusami. Ah, giusto. Hanno interessante, deciso di affiancare due smartphone. È interessante perché l'intero processo di sviluppo, diciamo, di preparazione è stato discusso col pubblico attraverso internet. Al momento hanno mostrato le foto dei primi prototipi di produzione, quelli che dovranno... No, in realtà le hanno già mandati dei prototipi alla FCC. Chi? Alla FCC. FCC, quello che si mette su Franco Ball. Ah! FCC. Su Franco Ball. È molto interessante perché ha un sacco di cose carine. Poi appunto c'è, cioè, questa disponibilità a essere molto aperta. Voci dicono che supporteranno anche l'installazione in parallelo di altri sistemi operativi Linux e via discorrendo. È molto bellino, mi piace, lo sto attendendo con ansia. Ma arriverà, si spera, inizio dell'anno più o detto meno. Detto così mi sta venendo un'ansia addosso anche a me. E quindi ok, io volevo solo ricordare, grazie. No, volevo ricordare che stiamo registrando. Ah, Per cui, se da noi tipo sono le 5 del mattino. Ah, beh, sì, è vero. Da effetti. Voi magari è già novembre. Sì, sì, sì. Cioè, se da noi, per esempio, è ora di pranzo. Sì, da voi. Da voi potrebbe essere. Non sa. Tu, uomo del computer, uomo dell'internet, che stai ascoltando questa puntata adesso che sei già nel 2013, dici: Madonna, ma questi qua, quando è che ha registrato? Io veramente inizio a preoccupare. Reputati fortunato di essere già nel 2013, esatto, dopo tutto esatto. Quello che hanno detto sul 2012. Esatto, esattamente. Cioè, per esempio, metti che qua noi stiamo registrando ed è ora di pranzo, da te potrebbe essere martedì. Esatto. Cioè, non è che c'è una, proprio una corrispondenza esatta. Quelle sono cose grosse, sono bei problemi. E comunque. Magari da te stanno lanciando dei meteoriti, delle cose, qua invece tra poco lanceremo una canzone. Esatto, state ascoltando la puntata numero 0 di Opencast Alpha, il podcast del Gellecomo. Speriamo di cavarcela. Il prossimo pezzo è Supernatural dei Juanitos. Well, if you feel you like it, well, if you feel you like it, well, gonna ride. The letter gonna mail it to my local DJ. It's a rocking little record. I want my jockey to play. You know my temperature's rising and the jukebox is blowing a fuse. My heart's beating rhythm and my soul keeps singing the blues. Well, if you feel you like it, well, if you feel you like it, well, if you feel you like it, well, if you feel you like it, I got a rocking pneumonia. I need a shot of rhythm and blues. Supernatural. I think I got it off the writer sitting down by the rhythm review. Supernatural. Well, early in the morning I am giving you the warning. Don't you step on my sweat shoes. Hey, little, gonna play my fiddle. Ain't got nothing to lose. Supernatural. Supernatural. Supernatural. Oh, supernatural. Supernatural. Oh, supernatural. Supernatural. Well, if you feel supernatural. Well, if you feel supernatural. Well, if you feel supernatural. Well, if you feel supernatural. Un podcast a basso contenuto di grassi insaturi. Eh sì, veramente insaturi, e questa musichetta mi piaceva, ci sta dentro un casino. Ricordiamo sempre che tutta la musica che passiamo su Opencast Alpha è musica open in Creative Commons. C'è anche mio cugino. Sì? Che si occupa? Niente. Non si occupa. Allora ricordiamo anche che sì. tutti gli argomenti che trattiamo su Opencast saranno linkati sulla pagina del sito del GL Como. Grazie, signor Presidente, vi salva. www.glcomo-como.it. Shura Maria, la parola linkato deriva dal termine inglese link, che significa collegamento. Linkamelo. Collegamento significa appunto il collegamento a un sito esterno. Tu vai col tuo mouse, o meglio il tuo puntatore, clicchi sul link e il link ti porta a un sito esterno. Chiusa la parentesi per la Shura Maria. Sei veramente troppo tecnico. Ah, grazie. Ma l'ho detto che dobbiamo fare una roba molto tecnologica, molto tecnica, ma anche facile per coloro che ci ascoltano. Per esempio, Monto, che stai ascoltando questa puntata e ti salutiamo, tu magari Ciao, non Monto. Ti ricordi, non sai cosa significa linkare, oppure lo usi troppo spesso e ti sei dimenticato il suo significato. Ma Loris, hai detto facile. Facile? Ma facile, la prima cosa che mi viene in mente è la nuova versione di Ubuntu. Ah, tu pensa? Facile parlarne male, direi. Non lo sapevo che era presidente anche il re del collegamento il radio. Il re del collegamento grande. A Wanagana, una volta. Wanagana. L'altro giorno, il 10/10/2010, che è una data storica. E il 10/10/2010 è passato, non è storia. No, è una data storica. Pensa, l'anno scorso la data storica era il 9/9/2009. Ma è uscito che cosa il 9/9/2009? Niente, però era bella la data. Infatti. Tu pensa quando sarà il 20/20/2020? Io il 9/9/2009 dovrei essere uscito di casa, se non erro. Voi mi assicurate che siete astemi? No, io veramente. Io sono di Como. No, lo sapevo. Comunque, Astrumi, sì, la versione quella lì di Linux un po' tu la PlayStation 3 non la usi più. Non la devo usare più, ma come? Adesso che l'ho jailbreakata? No, ma c'è il gedit. Attenzione, perdita d'aria in corso, depressurizzazione cabina. Allontanarsi, prego, allontanarsi. Comunque, ragazzi, il 10/10/2010 è uscita la nuova versione di Ubuntu, la 10/10. È una cosa fuori dal mondo. Dici, quali sono le novità, Davide? Han cambiato lo sfondo. Cacchio! E poi? Hanno lasciato la chiusura dei bottoni in alto a sinistra. E perché? No. Non lo so, però devo ancora capire chi li lascia lì. Ancora non ho trovato una versione di Ubuntu installata che ha ancora i bottoni da quella parte dopo 10 minuti dal suo utilizzo. Tu non hai capito, quella è un'impostazione per mancini. Ho capito, mancini, ma io non sono mancino. Guarda, veramente Mancini l'ho incontrato l'altro giorno, mi ha detto che lui era in giro anche con il grandissimo Toto Cutugno. Cutugno. Sì. No, non Toto Cutugno, Toto Caimi. No, non Toto Caimi, Toto Schillaci. Toto Schillaci, bravo. Ecco, col Toto Schillaci ha detto che loro alla fine si trovano bene con i bottoni a sinistra. Bottone a sinistra. A qualcuno serviranno. Sì. Qualcuno piace a sinistra. Comunque la stiamo provando, sia versione 32 bit che 64 bit. Sembra girare. Vediamo, vi terremo aggiornati. Se qualcuno ha qualche novità, ci faccia sapere. Ma è stabile? È stabile? Ma io l'ho lasciata lì. Il computer è lì, non si sposta. Il computer è lì, fermo. Ah, okay, l'hard disk gira un po', Perché è un fisso, su cui la stiamo provando. allora. Qui è abbastanza stabile. Ok, benissimo. E quindi, ma io direi che comunque ci aspettiamo nei commenti, oltre appunto nei commenti sulla pagina del Gelecom di questa puntata di Opencast Alpha, ci aspettiamo, oltre a commenti vari sulla puntata, anche dei commenti su come funziona l'Ubuntu, voi che l'avete provata. Voi che l'avete provata, uomini dell'internet, voi uomini della strada, voi donne che l'avete provata, voi uomini che la vorreste provare, ma ma le donne non ve la fanno provare, fateci sapere com'è questa nuova Ubuntu. E a proposito di provare, e a proposito di farci sapere, a proposito di farci, e a proposito di contattarci, e di sapevatelo che c'era, che ci sarà il 23 ottobre, che ci sarà il Linux Day. Hey! Siamo qui appunto per promuovere questo evento. Cioè, fratelli, ci siamo sbattuti per delle settimane a riuscire a registrare. Siamo qui per ricordare insieme il 23 ottobre l'appuntamento con il Linux Day. Ma sarà comandi, venite tutti quanti, perché ma, insomma. Ma ti ricordi la via? La via è la circoscrizione, allora, numero 6. Attenzione, no, perché in via Grandi a Como. A Como, ragazzi, c'è un fantastico parcheggio denominato Ticosa. Che se non ci fanno i lavori è disponibile. Speriamo. Speriamo. Quindi con una bellissima vista di fronte al parcheggio, e quella è la circoscrizione numero 6 di via Grandi ragazzi, siete grandi, grandissimi. Linux Day anche quest'anno, esatto. Linux Day anche quest'anno in tutta Italia, in più di 140 e rotti posti. Sti cacchi. Rotti? Sì, rotti. Uh-huh. 140 tutti rotti posti. Tutti rotti. Tra l'altro abbiamo anche la chi? Cosa? Ah, veramente? C'è qualcuno che ci ha dato Oh, a proposito, volevo... Quella... No. Chi? Ma perché? Ah sì, mi ricordo! Sì, ma è perfetto. E quindi... E quindi niente, in tutta Italia, in più di 140 città, si svolgerà l'Inus Day. Un attimo che devo andare a caricare il presidente. Stavo cercando di coprire i buchi, non mi fate finire. Mi hanno staccato il pannello solare stamattina dal cervello, ragazzi. Della regione Lombardia. Oh, giusto. È stata dura, è stata dura anche per la regione darci il patrocinio, perché... Non si fidavano. Io te l'ho detto che devi cambiare il sistema di ricerca file e cartelle che c'è nel cervello te. Cioè, perché non hai trovato patrocinio? È una parola che dovresti trovare subito. No, messo un sacco non ho di trovato tempo. Lombardia. Ah, Lombardia. Esatto, vabbè, allora ti posso comprendere. Ti posso, non è che è una roba che senti tutti i giorni, Lombardia, è abbastanza difficile. Ok, posso finire il discorso? Prego, mi scusi. No, stavo dicendo, in tutta Italia il 23 di ottobre, che è un sabato, si svolgerà Linux Day in 146 e rotte città. Io dico 143. Okay. Io dico rotte. Rotte, io dico rotte, così siamo a posto. Mm-hmm. Questa giornata, a proposito di Linux, dove si potrà conoscere, confrontarsi, scoprire Linux e il mondo del software libero, a Como, appunto, il Gelecom lo organizza in circoscrizione 6 in Via Grandi, col patrocinio della Regione Lombardia, di cui ce ne vantiamo ma veramente a piene mani. E per cui siateci. E quest'anno l'argomento scelto, bravo, per il Linux Day è Linux e la scuola, quindi Linux nella didattica, l'open source nell'ambiente didattico, dalle lavagne interattive, che se tutto va bene la presenteremo, una lavagna interattiva noi fatta com, a mano, ce la faremo utilizzando il controller della Wii. La Wii, oh, controller della Wii. Quindi quest'anno le scuole sono il punto di riferimento per il mondo Linux. Certo, tutto quello che riguarda la didattica e il mondo open source, da OpenOffice, per esempio, ha varie versioni di software educativi presenti, come per esempio in Edubuntu. Ma a proposito di OpenOffice, lo sapevate? Sapevate? Sapevatelo. Sapevatelo. È da un po' che qualcuno ha acquistato la Sun. Sun? Sì. Qualcuno, non mi ricordo come si chiama, è uno che è in giro ad acquistare di tutto. Aspetta, quello là grosso, quello verde. Verde? Quello verde. Con due O così. Ma siamo sicuri che è verde? E due. Ma veramente si è comprato anche la Sun? Ha comprato la Sun. Uno si è comprato la Sun. Ma la Sun non è quella che fa il Java? Sì, pure. La Java. Aspetta, fammi un po' il Java. Attenzione, notizia dell'ultimo minuto. Java si droga perché è pieno di buchi. Ah, questa è una notizia messa in giro così ultimamente. Anche sì, questa c'era, sì. No, ma però ce n'è uno che si è comprato Sun, quindi OpenOffice, Java, MySQL. Lo so. Chi? Paperonte e Paperoni. Quasi. Rocker Duke. Quasi. Rocco Siffredi. No. Lo sapevo. Cosa c'è da ridere? Beh, insomma, sapevo, avrà diritto anche lui a comprarsi qualcosa, no? Diciamo così. Non può sempre comprare le stesse cose. Certo, no. Però hanno tremato tutti i dipendenti. Secondo me un Rocco in Benz Sun ci starebbe dentro. Anche se molti lo penserebbero Rocco in versione sul sole. Inizio o qualcosa a capire di genere. Perché Java è pieno di buchi. Ah, vedi perché se lo compra Rocco. E allora ci certo sta dentro. Hai vabbè, installato vabbè Java? Vabbè, ve lo dico perché veramente diccelo, va, diccelo. Non ce la potete fare. Non ce la possiamo Oracle fare. Oracle, oh mio Dio, ma quelli si stanno veramente comprando tutto. Pensate che hanno fatto un'OPA anche su se stessi. Non sapevano più cosa comprare, hanno cercato di comprare se stessi. Un'OPA? Un'OPA è quella roba con due gambe e un becco. Quasi. Vicino alla gru. Diciamo offerta pubblica di acquisto. Ah, fantastico. Sembriamo più seri così. Sì, si sono comprati tutto. Oracle ha comprato OpenOffice. I programmatori e gli sviluppatori di OpenOffice hanno deciso di creare un fork. Perché non andavano d'accordo? Più che altro perché avevano paura che Oracle chiudesse le porte e via. Che in realtà è quello che sta facendo. Alla fine si sta tirando la zappa sui piedi. Voi siete apposta falsi e tendenziosi. Perché certo, la fondazione che è stata creata è stata creata appunto per ottenere un prodotto migliore. No, ma per carità, è che Oracle non entra nella fondazione, no, e ha cacciato fuori quelli della fondazione. No, è che quelli della fondazione hanno chiesto a Oracle. No, Fabio, il macete, tienilo lì per favore, ma insomma. Non è un macete, è un mitra travestito. Teniamoci un po' subillatori. Ma no, ma hanno chiesto a Oracle di entrare nella fondazione e di regalare il marchio. Oracle, ho detto, cacchio, ragazzi, quando si tratta di regalare non posso fare nient'altro che mandarvi aveva già messo le macchinette del caffè, però ma non era meglio mettere un bel marchio Rocco, che ci stava meglio. Ma adesso ci stanno lavorando Rock Office ci sta dentro, innanzitutto da un però sensazione, mi sembra di averlo già visto quel film, Rock Office. Rock on the Office può essere Rock on the Office. Comunque la nuova versione di Open Office, diciamo questo fork realizzato dai fondatori, dai programmatori, si chiamerà Libre Office. Ma libre. Cuba Libre. Libero. No. Cuba Libre. Bevono. Ma pare che sia già, adesso c'è fuori la versione beta 2, c'è la versione beta, sì. Noi la stiamo provando. Hanno già rilasciato anche il Language Pack. Sì. Però, ovviamente una beta, però quelli che l'hanno provata, adesso non so te, ma dicono... Ci stiamo lavorando. Io la sto scaricando, per dire la verità. Vabbè, è un buon modo di provarla. Ancora, per ora ci sono in giro, la versione per Windows, per Mac, c'è la versione .rpm e il sorgente. Vediamo che cosa succederà. Noi siamo qui a guardare. Voi, mi raccomando, non vi perdete le prossime puntate, sia di Opencast Alpha che di Open Office e di Libre Office. E perché vincerà? Nosotros de Sudamérica, programadores, le gustaría el libre software o anche le Office Libre, l'ufficio libro. E allora niente, mi raccomando, seguiteci queste vicende. Ve l'avevo detto che c'entrava Cuba. Abbiamo avuto un'intervista ufficiale, come si dice, solo noi ce l'avevamo questa intervista. Marcia Garcia Lopez Rocca, grazie Marcia Gonzalez, lo ringraziamo. Grazie. È un tizio che abbiamo incontrato per strada. Sì, esatto. Aveva una birra in mano. Ma direi, ragazzi, che è giunta l'ora di chiudere questa puntata zero di Opencast Alpha. Mm-hmm. Mi sembra che abbiamo detto un po' di cose interessanti. Non so, volete aggiungere qualcosa rapidamente? Mi raccomando, ragazzi, il 23 ottobre non vi perdete Linux Day. Tu ci sarai? Aspetta che ci penso. Sì, ci sarò. Ok. Vabbè, più o meno ci saremo tutti. Si è sentito? No, okay. Non si è sentito. Ti stavi grattando la crapa. Sì, infatti. Ci stavo ragionando su Linux Day. 23 ottobre. Perché mancare? A Como. Siateci. Bello, mi piace Linux Day. Perché mancare? Già. Bravo. Direi che possiamo salutare. Ciao. Saluto. Da Mingo. Babbi. Non c'è Mingo. Il buon Fabio. Mingo, Babbi e Misneo vi salutano. Ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Ciao, mancate. Ne. Ciao, ne. Ciao a tutti. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link delle puntate su www.gl-como.it.